muovi lenta nei miei pensieri. Resti anche quando dico addio. Sei la mia pace che fa rumore. La verità senza nebbia di ipocrisia. Ti cerco quando ti muovi e sparisci. Ti perdo ogni volta che sei qui. Sei la domanda che più mi punisce, la sola a cui rispondo sempre sì. Se resto fermo mi manchi già. Se vado via non so come sarà. Nec tecum, nec sine te. Non so vivere, non so scegliere. Sei la mia colpa, sei la mia fede. Nec tecum, nec sine te. Nec tecum, nec sine te. Ogni strada torna sempre a te. Sei il mio errore che mi difende. Nec tecum, nec sine te. Parli di noi come fosse un rischio. Io come fosse l'unica via. Ci amiamo in bilico sullo stesso filo, tra la paura e la nostalgia. Siamo due voci fuori tempo, nella stessa canzone sbagliata. Tu sei il dubbio che mi tengo, io la promessa mai mantenuta. Se chiudo gli occhi sei qui con me. Se li riapro non trovo più il perché. Nec tecum, nec sine te. Non so vincere, non so perdere. Sei la mia luce che mi tradisce. Nec tecum, nec sine te. Nec sine te. Sei confine che non c'è. La mia salvezza che finisce. Nec tecum, nec sine te. Resto sospeso tra sì e mai, tra quello che siamo e quello che fai. Sei la distanza più corta che ho, sei il motivo per cui non me ne andrò, non me ne andrò, non me ne andrò. Nec tecum, nec sine te. Questa croce che porterò. Amore antico come le stelle. Nec tecum, nec sine te. Nec tecum, nec sine te. Finché il cuore si arrenderà tra le rovine delle cose belle. Nec tecum, nec sine te.